Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che riprende il discorso su Rodari e il cinema. Domenica scorsa con il professor Ermano Tajani abbiamo analizzato la prima produzione negli anni 50 di Rodari, magari con registi del calibro di Lizzani, per la produzione di film e di propaganda del Partito Comunista Italiano, con un'enfasi molto sovietica, che ritroviamo anche in questo spezzone che abbiamo scoperto scartabellando nelle videoteche, che riguarda la celebrazione filmica del Partito Comunista Italiano nel suo congresso del 1951. Ci sono anche momenti più tipicamente congressuali, ma noi abbiamo centrato il focus della nostra attenzione sulla celebrazione di unità tra popolo e partito, enfatica, che probabilmente era anche importante per un Partito Comunista Italiano che dopo il 48 si è ritrovato un po' a margine della politica italiana in difficoltà. Quindi, pur senza vedere le immagini, ma immaginandole, dato il sonoro, ripercorriamo quella cinematografia di propaganda degli anni 50, anzi del 1951. il ritorno della guerra di Stalin ai rappresentanti dei partiti comunisti e operai esteri. Un reparto di pionieri di Roma è accolto da una calda manifestazione di simpatia. Le organizzazioni democratiche dei giovanissimi che riuniscono nelle proprie vie, oltre 150.000 bambini e bambine, si insegnano a amare la patria e la pace, a dare il culto della lealtà, della verità e del coraggio. Il capo dei pionieri legge dalla tribuna un messaggio di saluto. Noi vivi in Italia, gli dice, siamo grati perché siete i liberi difensori della pace e quindi della nostra vita, la vita dei nostri amici. Comunisti della capitale, è giunta al fine della riscossa, quando alzeremo sopra al Quirinale bandiera rossa. Questa città ribelle mai domata dalle rovine e dai bombardamenti, la guardia rossa suona la adunata, tutti presenti. 20 anni e più di tirannia fascista, col carcere, il confine e col bastone, non hanno menomato al comunista la convinzione di una nuova era, che al mondo porterà la redenzione, e porta scritto sulla sua bandiera, rivoluzione. Se la polizia non ce lascia perde, e se la polizia non ce lascia in pace, risponderemo dalle barricate, piombo sul piombo. E se cademo in un fulgor di gloria, schiacciando borghesia e capitalismo, nel sangue sorgerà la nuova storia del comunismo. Dal sangue nascerà la nuova storia del comunismo. Allora riprendiamo il fil rouge del discorso del professor Ermanno Tajani, sempre su Radari e il cinema, questa volta le produzioni legate anche a Cipollino in Unione Sovietica, il suo successo. Naturalmente sappiamo che la pellicola più famosa sulle storie di Rodari, La torta in cella con Paolo Villaggio, anche se vedremo ci sono dei se. Porto tra Rodari e il cinema è quello relativo ai film tratti dalle opere di Rodari, almeno finché lui fu vivo, perché poi ovviamente dopo la sua morte nel 1980 ci sono tante cose, anche autoprodotte, fatte da scuole, da tantissimi soggetti che hanno preso spunto da racconti o libri dello scrittore piemontese. Nel 61 una prima versione cinematografica a cartoni animati di Cipollino con la regia di Boris Dietzkin, e quindi era un film tra l'altro realizzato dal principale studio sovietico di cinema di animazione, ed era un film paradossalmente di chiara impostazione disneyana come tipo di immagini, ricordava molto fantasia come tipo di film, e questo diciamo era in qualche modo contraddittorio perché Rodari nella vita si è espresse più volte critiche al cinema di Walt Disney come espressione di un certo tipo di versificazione del mondo infantile o comunque come frutto di un capitalismo che andava combattuto, eccetera. Negli anni successivi, tra il 73 e il 74, furono realizzati altri due film tratti dalle opere di Rodari, il primo con la sua collaborazione, e fu un'altra versione di Cipollino, ma in questo caso con attori in carne ed ossa, e il film italiano senza l'apporto di Rodari stesso, La torta Salta in cielo, nella trasposizione appunto di Cecilia Mangini e con la regia di Dalfrà. Nel primo, in quello sovietico, si vede lo stesso Rodari. È un film che segue varie storie di Cipollino e all'inizio si vede Rodari, una sequenza che comincia a Piazza Campo dei Fiori a Roma e che gira per la città e racconta appunto tutta una serie di cose. La Torta in cielo è un film molto curioso, tra l'altro fu un film che ebbe anche un discreto successo. Come scrisse Rodari, era una favola sulla bomba atomica. Favola non ha una morale esplicita, non è una favola edificante. A me basta che domani, quando il bambino vedrà la televisione o in un giornale un'immagine del fungo atomico, si ricordi del libro e pensi quanto sarebbe meglio se invece di sprecare i soldi a fare bombe li adoperassero per fabbricare torte al cioccolato. E quindi sommava questo spirito pacifista a questo intento di Rodari, si invece veniva inserite tematiche sessantottine, come erano proprie di quei due registi che si collocavano nei gruppi alla sinistra del Partito Comunista di quegli anni. Si enfatizzava nel quartiere del Trullo, in cui il film veniva ambientato, la spontanea carica rivoluzionaria e antiautoritaria dei proletari romani, tipica tematica del gruppo di Nuova Sinistra Lotta Continua. Due dei bambini si chiamavano nel film come i leader di Lotta Continua, Guido Viale e Adriano Sofri. Quando vengono fermati dalla polizia, l'interprete principale era Paolo Villaggio, affiancato da altri noti attori di quell'epoca, e non sappiamo cosa Rodari ne pensò. Quando il film fu presentato a Mosca, lui era presente e scrisse un articolo sul Festival di Mosca, ma non citò il suo film, che pure conobbe un buon riscontro, un buon successo. E non a caso critico come Goffredo Fofi, di quell'area a cui appartenevano Cecilia Mangini e Lino Dalfrà, parlò bene del film dicendo che era un film del 68, ma attaccò il riformista Rodari con il suo buon senso socialdemocraticamente inoffensivo. Chissà se anche in questo caso Goffredo Fofi abbia cambiato idea. Ha passato gli anni 60 e 70 a attaccare Fellini, Pasolini. Pasolini addirittura ruppe con vari suoi amici, proprio nella sua polemica con Goffredo Fofi, se abbia cambiato idea, perché adesso invece ovviamente su tutta una serie di autori che allora stroncava in nome del maoismo. Una recensione a un film di Berman in cui c'erano solo due parole, leggere Mao, ecco. E quindi adesso invece di Fellini e di questi autori parla. Comunque, non sappiamo appunto però Rodari cosa pensò di questo film. Forse pensò che un certo travisamento facesse parte naturalmente del passaggio di qualsiasi testo dallo scritto alle immagini in movimento, ma peraltro appunto l'organo del PC, il giornale del PC, l'Unità, ne parlò bene, anche perché forse il film uscì alle soglie della politica di compromesso storico di Berlinguer e quindi su molti temi, fino al 73-74, anche tra la Nuova Sinistra e il Partito Comunista ci fu sicuramente una maggiore sintonia, che proprio la svolta di Berlinguer invece poi incrinò a un certo punto. Il film sovietico, invece, appunto quello che citavo prima, in cui si vede lo stesso Rodari, fu recensito entusiasticamente da Paese Sera e dall'Unità, e sembra a rivederlo oggi un po' ricordare la serie Pippi Calzelunghe di Coeva come tipo di messa in scena, come tipo di recitazione, eccetera, ma ebbe uno straordinario successo. L'Unità disse che fu visto da milioni di sovietici e tale fu il successo che la stessa regista, Tamara Lisitsyan, realizzò anche quello che allora si diceva un telefilm, che si chiamava appunto La voce magica di Gelsomino, tratto dal Gelsomino nel paese dei bugiardi, e questa serie fu trasmessa dalla televisione sovietica nel 77 e secondo l'Unità fu vista da 30 milioni di telespettatori, lo dice in un articolo. Non so quali servizi di verifica dell'ascolto ci fossero in Unione Sovietica negli anni 70. Comunque, per chiudere, il terzo aspetto di Rodari e il cinema è il suo scrivere di cinema, pensare il cinema. Molto brevemente, Rodari pensò che il cinema italiano era stato il modo in cui la cultura italiana era tornata a parlare da pari a pari all'Europa e al resto del mondo, facendo scuola. E scrisse, in questo secondo dopoguerra, col cinema, prima con i maestri del neorealismo, da Rossellini a De Sica, eccetera, e adesso col cinema politico. Nessun autore italiano di oggi, nemmeno Moravia, può vantare la fama internazionale dei nostri registi cinematografici. L'Italia è uno dei paesi che con maggiore intelligenza e creatività hanno saputo padroneggiare la nuova lingua universale. E su questo appunto poi scrisse anche varie recensioni di film e inviti ad andare a vedere i film, soprattutto nella sua collaborazione con il quotidiano romano Paese Sera. L'altro aspetto è che Rodari si batté per una produzione dedicata ai bambini e, pur tra tante critiche, ammirava che in Unione Sovietica ci fosse un segmento significativo di film che ogni anno venivano prodotti per l'infanzia e chiedeva in questo un impegno dello Stato anche in Occidente, anche in Italia. E quindi scrisse su questo tante volte, sottolineò anche la differenza tra la visione cinematografica e quella televisiva, sostenendo che appunto non erano minimamente sovrapponibili, erano del tutto diversi, soprattutto per i bambini, ma quali dovevano essere le caratteristiche di un buon film per bambini e per ragazzi. E questi film dovevano avere, rispettare le esigenze di fiaba per i più piccoli, di avventura per i più grandi, interpretassero questi film il loro mondo, che rappresentassero il loro punto di vista sul mondo. Insomma, dei film che si schierassero dalla loro parte e dei film appunto che dovevano essere visti in luoghi appositi in cui i bambini e i ragazzi non si limitassero a vedere passivamente, ma in cui invece insieme potessero fare cinema, teatro, musica, fossero autori loro stessi di un loro cinema, di un loro teatro, di una loro produzione musicale. Affacciati alla finestra e guarda, ragazzi. Alfredo è bellissimo! Ultimo spezzone della nostra trasmissione è sulla graphic novel, perché è uscito da sola per la Diabolo Edizioni, un'opera di Percy Bertolini che è stata interpellata da Rachele Copparone. Sentiamo le sue risposte. È uscito per Diabolo Edizioni il fumetto Da Sola di Percy Bertolini e siamo qui proprio a parlarne con Percy. Ciao Percy, buongiorno, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno. Perché hai deciso di raccontare questa storia e quanto credi sia importante raccontare appunto storie del genere in questo momento? In realtà avevo desiderio di raccontare questa storia da molto tempo. E mi rendevo conto che quando provavo a raccontarla a voce nessuno mi ascoltava e quindi ho trovato un altro strumento che è quello del fumetto, ma più della letteratura illustrata, e l'ho fatto e basta. E penso che sia importante adesso sicuramente, perché ce n'è bisogno ora ed è quello, secondo me, che una persona sia adolescente che adulta ha desiderio di leggere. Forse non abbiamo più voglia di leggere. Cioè, ci sono tanti fumetti che io leggo e dico che palle, ma che cos'è questa roba? Non ne posso più, ok? Invece ho bisogno di questo tipo e anche di raccontarlo. Tra l'altro risalta all'occhio anche i tre colori, no, che caratterizzano un po' tutta la storia, che sono il bianco, il nero e questo fucsia molto acceso, che rappresenta anche un po' la parte, diciamo così, bestiale, no, del personaggio. Tra l'altro, sì, questi colori ricordano anche un po' l'immaginario transfemminista, quindi ti volevo chiedere proprio da dove nasce questa scelta stilistica dei colori. In realtà sì, io uso sempre usato il bianco e il nero come, diciamo, colorazione d'elezione, no? Però sono sempre stata affascinata dai colori molto acidi, forti, tipo il suo. E il rosa è sempre stato in realtà il mio colore preferito. Quando ero, diciamo, piccolo non mi piaceva perché lo connettevo al femminile, ma il femminile quello imposto, quindi le Barbie, le cose, quindi non mi piaceva. In realtà mi piaceva, cioè a livello sensoriale mi attirava tantissimo, e quindi l'ho riscoperto poi dopo che sono diventato, diciamo, femminista, e me lo sono rivendicato questo rosa, questa attrazione per il rosa. Sì, sicuramente ho inciso anche il mio attivismo politico, però non tantissimo, nel senso che davvero questi sono sempre stati i miei tre colori preferiti. Poi li ho scelti anche perché la protagonista ha una tuta, e ho fatto uno studio enorme sul tipo di tuta da farla indossare, e alla fine le ho fatto mettere una tuta che avevo nel mio armadio, che era proprio la mia, ed era bianca, nera, rosa e arancione, quindi poi quelli sono diventati i colori del libro. E invece per quanto riguarda la, diciamo, metà bestiale, sovrannaturale, un po' così, del personaggio, come mai hai scelto di rappresentarlo così? Si dice, no, che questo personaggio è metà umano perché è metà faccia di pelle, metà peloso, quindi bestiale. In realtà sappiamo che l'umano è un animale, cioè non c'è in realtà una dicotomia vera tra umano, no, e bestia. Anche l'umano è una bestia, però se ne dimentica, e quindi a partire da questa, diciamo, divisione, questa invenzione della divisione tra umani e animali, fa partire poi tutte le asimmetrie di potere che ci sono anche tra gli animali e gli umani. E quindi, non lo so, penso che c'ha tanti significati quella metà testa pelosa. È anche un fatto di età del personaggio. Volevo fare tutta una riflessione sull'adolescenza, su questo momento di transizione, che in realtà secondo me non è, cioè l'adolescenza viene definita come un periodo di passaggio dall'età bambina all'età adulta, in cui tu passi da uno stato più, diciamo, bestiale a uno stato umano, appunto come se fosse qualcosa di brutto la bestia, e lo devi fare in fretta perché le persone non vogliono che tu resti in una via di mezzo. E lo stesso avviene col genere, quindi anche con le transizioni di genere: devi passare da maschio a femmina, non puoi restare nel mezzo, non puoi essere una persona non binaria. Su questa cosa dell'adolescenza ci tenevo anche molto, perché secondo me appunto non è l'unica età della vita in cui una persona cambia. In realtà noi cambiamo continuamente, e credo che sia un libro molto antispecista. Questo personaggio è il personaggio più subordinato del pianeta, perché fra uomo e una donna non si sa se è uomo o una donna, ma comunque la associano al genere femminile, quindi si vive l'oppressione patriarcale e non ha mai il privilegio. Tra adulto e bambino è più verso il bambino, e quindi comunque è uno stato di subordinazione all'adulto. Tra animale e umano è più un animale, mancava solo che avesse metà la pelle nera, però non potevo farlo perché non era la mia storia. Ti volevo chiedere anche l'ultima cosa, Percy, perché un altro elemento, diciamo, importante del fumetto è la musica. Ci puoi raccontare un po' questa tua connessione con la musica? Io questo libro, quando l'ho disegnato, l'ho pensato tantissimo come una musica. Cioè, i libri in realtà hanno dei suoni che sono quelli, ad esempio, del voltapagina, del ritmo, proprio come una canzone, e quindi anche quando l'ho disegnato l'ho ragionato in questa maniera. In più, la protagonista del mio libro si isola con la musica che ascolta continuamente con queste cuffiette, e lei praticamente tutta la sua giornata cammina in questa città ascoltando la musica con le cuffiette e ballando. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse messa e uscissero le donne. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.